C'erano delle attese, dal mio punto di vista esagerate, su quello che poteva essere l'azione della Banca Centrale Europea oggi. Il taglio del tasso era abbastanza atteso dai mercati, ci sono stati anche degli elementi positivi come l'azzeramento del tasso di deposito presso la banca centrale, questo dovrebbe dare maggior respiro all'utilizzo della vecchia liquidità data alle banche con le famose asse a 3 anni, che per il momento sono stati in buona parte depositati e non messi in circolo nell'economia ma anche negli investimenti. Dall'altro lato c'erano comunque anche delle attese per quanto riguarda un'azione più incisiva per la riduzione degli spread, quindi eventualmente messaggi o di ulteriori assi di liquidità o eventualmente di azioni più incisive per questo fattore dello spread. È chiaro che le attese erano esagerate. Una volta uscita la notizia, chiaramente il mercato ha avuto la sua reazione, direi anche abbastanza violenta.